passerei alla fase successiva e darei la parola al professor Ubaldo Pellegrino dell'Università di Verona, il quale ci parlerà della religione nell'ultimo cante. Professor Pellegrino è a tutti noto, è uno studioso dell'esistenzialismo e recentemente ha scritto un volume sulla cristologia in Kant che si colloca, direi, in maniera quasi perfetta nei discorsi appunto che si stanno facendo, quindi gli do senz'altro la parola. Ecco, la mia lezione è diventata troppo lunga, è divisa in 5 punti e ci metterei troppo tempo a leggerla, l'ho scritta e la manderò. E allora preferisco commentare brevemente e correggere anche qualche punto di quella sintesi che loro hanno in mano, uomo e Dio nell'opus postumum di Kant. Io ho dedicato qualche anno allo studio dell'opus postumum e ho avuto una lieta sorpresa quando ho pubblicato l'opera. Dopo poco tempo è uscita un'opera intitolata Opus Postum di Kant, la mia intitolata L'ultimo Kant di Mathieu, e ho visto con grande piacere che le nostre analisi avevano raggiunto lo stesso risultato per quanto riguardava l'impostazione sia quanto alla scienza sia quanto alla metafisica dell'ultimo Kant. Quindi ho avuto una conferma da questo grande studioso della filosofia kantiana che è Mathieu. Io mi limito quindi a dare qualche completamento a quella sintesi che loro hanno in mano, in modo da non dilungare troppo la mia lezione. Come detto qui all'inizio di questa sintesi, l'opus postum è l'opera incompleta, perché Kant non l'ha completata, scritta tra il 1794, qui c'è scritto 44, ma questo è un errore, 1794 e 1803, ed è pubblicata nei due volumi, 21 e 22, dell'edizione di Berlino dei Kantgesammelte Schriften. L'opera consta di 13 involti, di cui 11 hanno come oggetto il passaggio dalla metafisica alla fisica, e due, il primo e il settimo involto, una revisione critica di tutta la filosofia trascendentale. Da questo punto di vista è molto interessante per vedere un poco quale è la posizione di Kant, sia per quanto riguarda la fisica, sia per quanto riguarda la metafisica. L'ultima opera di Kant ci dà indubbiamente uno sviluppo in rapporto alle critiche antecedenti e soprattutto ci dà uno sviluppo per quanto riguarda il rapporto dell'uomo con Dio. Quindi è interessante anche nella prospettiva che noi abbiamo come oggetto delle nostre discussioni in questi giorni. Nella prefazione alla critica del giudizio, Kant aveva posto il carattere propedeutico che le tre critiche hanno in rapporto alla metafisica, distinta in metafisica dei costumi e in metafisica della natura. Ecco, questa posizione di Kant è una posizione che implicava uno sviluppo successivo. Lui scrive in una delle sue lettere che quest'ultima, cioè la costruzione della metafisica e della natura e della metafisica dei costumi, sarebbe stata l'opera più importante della sua vita. Quindi l'opus postum è da vedere in questa luce. Per Kant era un una delle parti dell'opera più importante della sua vita. Kant, con Jan Franz Grün de Naturwissenschaft nel 1787, aveva cominciato a studiare la natura corporea, però una natura corporea astratta dalle forze fisiche percepibili. Ora, il problema che lui si poneva era precisamente questo: non si può studiare la natura fisica soltanto dal punto di vista formale o degli elementi a priori che costruiscono la natura fisica. La metafisica della natura doveva contenere una scienza a priori delle forze fisiche moventi della natura. Ecco, 11 involti dell'Opus Postum hanno come fine proprio questo, quello di vedere, partendo dalla priori, come noi possiamo raggiungere le forze fisiche moventi della natura, quindi non più astraendo da quelli che sono i dati percepibili della natura fisica. Ecco, Kant sostiene ripetutamente che il problema è quello di costruire una scienza mediana tra la natura in quanto vista come puramente formale, come hanno fatto gli Anfasgründe, e la natura come è concepita e come è vista dalla intuizione sensibile. L'intuizione sensibile che anche nell'Opus Postum è l'unico che esiste per Kant. Ma la natura è empirica in quanto oggetto di percezione, non è in grado di assurgere la dignità della scienza. La fisica empirica da sola non è in grado di essere scienza perché non è sistema unitario. Bisogna dimostrare con una metafisica materiale della natura la possibilità della fisica come scienza. È ancora il problema che Kant ha affrontato ripetutamente e ampiamente nella Critica della ragion pura. Ora, per mostrare la possibilità di questa scienza, Kant si rifà nell'Opus Postum ad una determinata concezione dell'esperienza che è elaborata nelle critiche e che lui sviluppa nell'Opus Postum. Il problema fondamentale per Kant è ancora nell'Opus Postum quello di trovare i concetti a priori di questa fisica come scienza, concetti a priori delle forze moventi della natura, in quanto dipendenti dalla sintesi della percezione trascendentale. E anche nell'Opus Postum lui fa le due deduzioni, la deduzione metafisica e la deduzione trascendentale. Anzitutto la deduzione metafisica, in cui le forze moventi e le proprietà della materia sono costruite entro una topica trascendentale, secondo la normale divisione categoriale, quantità, qualità, relazione e modalità. Qui in questa sintesi è esaltato questo termine modalità. Dopo di aver esposto entro questa quadruplice divisione che si lega alle critiche e soprattutto alla critica della ragion pura, quelle che sono le proprietà fondamentali o le forze moventi della natura fisica, Kant si impegna nel compito più difficile, anche qui, la nuova deduzione trascendentale. Egli è convinto che tra le categorie e i concetti empirici che non hanno dignità di scienza ci sono quelli che lui chiama nell'Opus Postum dei Mittelbegriffe, cioè dei concetti che mediano tra i concetti puri categoriali e i concetti empirici. Ora, questi Mittelbegriffe, secondo Kant, hanno una capacità di fondare obiettivamente la scienza fisica in quanto sono costruzioni a priori dell'esperienza. Qui rimane un principio fondamentale di Kant nel Logos Postum, e che noi nulla possiamo ricavare in una unità sistematica dall'esperienza che non abbiamo posto in essa, in forza della sintesi a priori. È un principio cardine delle critiche e rimane un principio cardine anche nell'Opus Postumum. Ora, in questo quadro si pone quello che lui chiama numerose volte nell'Opus Postumum sed setzum, autoposizione da parte dell'io o formazione dell'io dalla sintesi suprema trascendentale dell'io puro si forma l'io empirico, come pure da quella sintesi che si forma quello che per lui è il cardine della fisica come scienza, che è l'esistenza della materia o dell'etere. E proprio sarà nella seconda parte dell'Opus Postumum che, partendo dalla scienza in quanto è ormai sistemata come unità della scienza fisica, egli rielabora tutto l'idealismo trascendentale, affrontando il problema che è il problema delle idee, a partire dal valore dello spazio e del tempo, della cosa in sé e dell'idea di io, mondo e Dio. È chiaro che a noi interessa in questa sede soprattutto il rapporto tra io, mondo e Dio. Questa è la tematica dell'ultima parte dell'Opus Postumum. I due ultimi involti sono dedicati proprio a ripensare il problema del rapporto soprattutto dell'uomo con Dio. Ora, in quest'ultima parte dell'Opus Postumum, le idee hanno un duplice aspetto, un aspetto teoretico ed un aspetto pratico. Sotto l'aspetto teoretico, le idee si presentano con un'obiettività che non attinge il trascendente. E qui bisogna ribadire quello che è stato ricordato anche stamattina e soprattutto sottolineato dal professor Marcucci, che non esiste neanche nell'ultimo Kant, come non esisteva prima, un'intuizione intellettiva dell'essere. L'intuizione è sempre esclusivamente un'intuizione di carattere sensitivo. E quindi dire che noi autoponiamo le idee non significa dire che noi contempliamo quelli che sono gli oggetti delle idee, che noi contempliamo teoreticamente il mondo o l'io o Dio. Una contemplazione di questo tipo è esclusa risolutamente anche nell'ultimo Kant. Sotto l'aspetto teoretico, le idee hanno un limite che è quello del trascendentale, è limitata al campo del trascendentale, cioè non hanno un valore costitutivo dell'esperienza, ma un valore solamente regolativo dell'esperienza. E qui indubbiamente c'è un collegamento molto stretto con la critica del giudizio. Le idee hanno inoltre un valore costitutivo pratico, che include due momenti strettamente concatenati. Anzitutto la fondazione della vita morale dell'uomo, che qui c'è un legame strettissimo con la critica della ragion pratica, è fondato sull'idea di libertà e di persona. Quest'idea di libertà e di persona che indubbiamente è centrale anche nell'ultimo Kant. Ma questa idea di libertà e di persona è collegata strettamente con l'idea di Dio. Quell'idea di Dio che per Kant è collegata con quella di libertà. Delle tre idee che danno il sistema totale della realtà, La più importante, perché unifica le altre due ed ha con l'idea di libertà basata sull'imperativo categorico la possibilità di pensare l'idea di Dio e la sua formalità pura, è l'idea dell'uomo. Cioè noi abbiamo qui una via antropologica per salire a Dio. Come egli sale a Dio lo chiarirò subito, e l'ho chiarito in una parte che è la più lunga di quelle che ho scritto, ma mi preme dire che qui c'è uno sviluppo interessante che in qualche modo supera le posizioni antecedenti e giunge ad una posizione che certamente non è da collegarsi, come hanno fatto alcuni, con l'idealismo. Non è che Kant diventi idealista. Kant, non è vero, come hanno detto alcuni, che nell'ultima fase è diventato idealista. Lui, proprio negli anni in cui scriveva quest'opera, scriveva una presa di posizione fortissima contro Fichte. Non accettava la posizione di Fichte assolutamente, cioè la posizione di chi era convinto che noi possiamo superare il mondo fenomenico e raggiungere con un'esperienza reale il mondo noumenico, il mondo dell'io e della realtà in sé. In questo senso si deve dire che Kant, anche nella sua ultima fase, non è assolutamente diventato idealista. È sempre Kant critico, Kant che appartiene a un idealismo, certo, ma è un idealismo che non è trascendente, ma è trascendentale. L'uomo, come microcosmo, unifica in sé il mondo intelligibile e sensibile. E qui io ho sentito prima la bella lezione di Ferretti, dove il problema di Cristo è collegato con questa tensione tra questi due mondi. Ecco, questo è in pieno anche nell'ultimo Kant, in questi ultimi suoi scritti. Si attua così la rappresentazione della totalità dell'essere, però non come intuizione dell'essere, ma con un'idea che è della totalità del sensibile subordinato alla totalità dell'intelligibile. Si ha così una subordinazione nell'uomo del mondo a Dio, ma è nell'uomo, è attraverso l'uomo che noi raggiungiamo l'idea di un mondo dominato dalla libertà suprema che è la libertà di Dio. Si tratta però di una rappresentazione non solo analogica ma anche problematica. Ecco, questo è un punto molto importante, su cui Kant ripetutamente insiste in questi due ultimi involti, che sono gli ultimi scritti. L'ultimo involto l'ha scritto pochi mesi prima della sua morte. Si tratta di una rappresentazione problematica, che nulla dice sulla realtà degli oggetti che sono trascendenti in rapporto ad essi. Ecco, questo è un punto molto importante, che riguarda la stessa esistenza di Dio.